Capitolo 28. Preparato tutto il necessario per la fabbrica del Tempio, Davide esorta Salomone, e tutti i principi congregati all'osservanza dei comandamenti di Dio, e prescrive la forma del Tempio da edificarsi. Convocò adunque Davide a Gerusalemme tutti i principi d'Israele, e i capi delle tribù, e i capitani delle bande, che servivano il re, e i tribuni, e i centurioni, e quelli che amministravano i beni, e le possessioni del re, e i suoi figliuoli coi contigiani, e i più possenti, e i più valorosi dell'esercito. E il re alzatosi, e stando in piedi, disse: Ascoltatemi, fratelli miei, e mio popolo, io ebbi intenzione di edificare una casa, in cui posasse l'arca del testamento del Signore, e lo sgabello dei piedi del nostro Dio, e ho preparate tutte le cose per la fabbrica. Ma Dio mi ha detto: Non edificherai tu una casa al nome mio, perché sei uomo di battaglie, e hai sparso del sangue. Ma il Signore Dio d'Israele elesse me di tutta la famiglia del padre mio. Perché io fossi in perpetuo re d'Israele, perocché egli ha scelti i principi da Giuda, e della stirpe di Giuda scelse la casa del padre mio, e dei figliuoli del padre mio piacque a lui di sceglieme per re di tutto Israele. E dei miei stessi figliuoli, perocché molti figliuoli mi ha dato il Signore, ha scelto Salomone mio figliuolo, perché segga sul trono del regno del Signore sopra Israele, e ha detto a me: Salomone tuo figliuolo edificherà la mia casa, e i miei atri, perocché lui ho scelto per mio figliuolo, e io sarò gli padre. E io stabilirò il suo regno fino in eterno, se egli persevererà nell'adempire i miei comandamenti, e le leggi, come fa adesso. Adesso pertanto dinanzi a tutta la adunanza di Israele, dinanzi al Dio nostro, che ascolta, io dico: osservate. Se studiate tutti i comandamenti del Signore Dio nostro, affinché abbiate il possesso di questa buona terra, e la lasciate a vostri figliuoli dopo di voi in eterno. Ma tu, figlio mio Salomone, conosci il Dio del padre tuo, e servilo con cuore perfetto, e di buona voglia, perocché il Signore è scrutatore di tutti i cuori, e tutti penetra i pensieri della mente. Se lo cercherai, tu lo troverai, se poi tu lo abbandonassi, egli ti rigetterà in eterno. Adesso adunque, da che il Signore ti ha eletto a edificare la casa santa, fatti cuore, e compisci l'opera. E Davide diede a Salomone suo figliuolo il disegno del portico, e del tempio, e delle camere, e dei cenacoli, e delle stanze segrete, e della casa di propiziazione, e anche di tutti gli atri che egli aveva ideato, e delle abitazioni all'intorno per i tesori delle case del Signore, e per i tesori delle cose sante, e la distribuzione dei sacerdoti, e dei leviti per tutti gli uffici della casa del Signore, e per tutti i vasi che doven servire alla casa del Signore. Gli diede l'oro secondo il peso che aver dovea ciascun dei vasi per il ministero, e l'argento pesato secondo i diversi vasi e lavori, e pe' candelabri d'oro, e pe' le loro lampane diede l'oro, secondo la grandezza di ciascun candelabro, e delle lampane, e similmente l'argento pesato pe' candelabri d'argento, e le loro lampane secondo la varia loro grandezza. Diede anche l'oro per le mense dei pani di proposizione, secondo la diversità delle mense, e similmente l'argento per altre mense d'argento. Similmente per le forchette, e le coppe, e i turiboli d'oro finissimo, e per i lioncini d'oro, secondo le loro grandezze assegnò pesato l'oro per l'uno, e per l'altro lioncino. E alla stessa guisa per i leoni d'argento separò un'altra quantità d'argento pesato. E per l'altare, su di cui si brucia l'incenso, diede oro finissimo, e per farne la immagine di un cocchio di cherubini, i quali stendendo le ali velassero l'arca del testamento del Signore. Tutte queste cose, disse egli, sono state mandate a me descritte di mano del Signore, affinché io comprendessi tutti i lavori di quel modello. Disse ancora Davide a Salomone suo figliuolo: opera virilmente, e fatti animo, e pon mano all'opera, non temere, non ti sbigottire, perocché il Signore Dio mio sarà teco, e non ti lascerà, e non ti abbandonerà, fin a tanto che tu abbi compiuto tutto quel che deve servire alla casa del Signore. Ecco, che tutte le classi dei sacerdoti e dei leviti sono a te d'intorno, e sono pronti a fare ogni cosa in servizio della casa del Signore, e tanto i capi, come il popolo sapranno eseguire tutti i tuoi comandi. Note, coi cortigiani. Letteralmente coglie eunuchi, ma questo nome diventò termine generale per significare gli uomini di corte. Due punti lo sgabello dei piedi del nostro Ec. Concepivasi Dio quasi sedente sull'ali dei cherubini coi piedi posti sull'arca. Due punti perché io fossi in perpetuo Ec. Davide certamente in parlando così mirava a quel re di Giuda del sangue suo promesso nella celebre profezia di Giacobbe. Gen. Xlix. Due punti e della casa di propiziazione. Del santo dei santi, luogo dell'arca e del propiziatorio. Due punti io, pe candelabri d'argento. Fino a 10 furono i candelabri del Tempio di Salomone. Davide aveva pensato di farli la meta d'argento, ma Salomone non credette di far contro l'intenzione del padre, facendoli tutti di oro. Così egli largheggiò ancora in molte altre cose per dare alla casa del Signore una maggiore splendidezza, parimente le 10 mense furono tutte di oro, a paral. 4. Due punti fa e leoni d'argento separò Ec. Non è fatta in vero un luogo altra menzione di questi leoni, o lioncini. Due punti e per farne l'immagine. Invece di Ut, l'ebreo e la Volgata stessa in qualche edizione hanno Et Ut, come si è messo nella versione. I cherubini, dei quali si parla in questo luogo, sono quelli che furon posti da Salomone nel Santo dei Santi, i quali coprivano l'arca con le loro ali distese, Areg. 8. Or Dio è rappresentato sopra un cocchio portato da cherubini, PS. 17. 2. E Zech. X. Per questo si dice, che con quell'oro doveva farsi l'immagine di un cocchio tirato da cherubini. Due punti affinché io comprendessi tutti i lavori di quel modello. Come già a Mosè diede Dio sul monte Sina l'idea e il modello del tabernacolo, così diede a Davide in una rivelazione il modello del tempio e la minuta descrizione di tutte le parti, e di tutto quello che occorreva per il servigio del medesimo tempio.